Ecco, un re regnerà secondo giustizia, ed i principi reggeranno secondo il diritto. Ognuno sarà come un riparo contro il vento e un rifugio contro la tempesta, come ruscelli d'acqua in una steppa, come l'ombra di una grande roccia in arida terra. Non staranno più chiusi gli occhi di quanti vedono e le orecchie di quanti odono staranno attente. Il cuore degli sconsiderati s'applicherà a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà chiaramente. L'insensato non si chiamerà più nobile, né il furbo sarà detto grande, perché l'insensato dice stoltezze ed il suo cuore medita iniquità, sì da commettere l'empietà e proferire errori riguardo al Signore, rimandare vuoto lo stomaco dell'affamato e privare di bevanda l'assetato. Il furbo, inique sono le sue furbizie, progetta scelleratezze per sopprimere i poveri con parole menzognere, mentre il povero espone il suo diritto. Il nobile, invece, progetta nobili disegni e si leva per compiere cose nobili. Donne orgogliose, levatevi, udite la mia voce, figlie baldanzose, prestate orecchio alla mia parola. Tra un anno ed alcuni giorni voi tremerete, o baldanzose, perché è venuta meno la vendemmia e la raccolta non ci sarà più. Fremete, o orgogliose, tremate, o baldanzose. Togliete le vesti, denudatevi, cingete i vostri lombi. Battetevi il petto per i campi ameni, per le vigne feraci, per la terra del mio popolo, sulla quale cresceranno spine e pruni, ed anche per tutte le case giubilanti della gaudente città. Poiché il palazzo è abbandonato, la città tumultuosa è deserta, l'Ofel e il Baan diventeranno caverne perpetue, gioia degli onagri e pascolo dei greggi. Ma alla fine sarà infuso su di noi lo spirito dall'alto. Il deserto diventerà un giardino e il giardino si cambierà in foresta. Nel deserto dimorerà il diritto e la giustizia abiterà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace ed il frutto del diritto sarà sicurezza e tranquillità perpetua. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in dimore sicure ed in luoghi tranquilli, anche quando cadrà la foresta e la città sarà profondamente abbassata. Beati voi che seminerete presso tutte le acque e lascerete in libertà buoi e asini.